Però non abbiamo dato i contatti, I contatti non li abbiamo dati. Chi volesse contattarci e chi volesse contattare Raffo Ferraro, quest'oggi ospite nella stanza numero 143, può farlo chiamandoci allo 041 26 02 100, oppure scrivendoci a stanza143@libero.it, oppure ancora, della cosa più semplice, entrare nel sito di Radio Base, www.radiobase.net, cliccare su chat, entrare nella chat, che oggi è già ben frequentata. Ci sono Ali, ci sono due Jim Hendrix. Due Jim Hendrix, è diventato solo uno. Vabbè. Ah, okay. Un Jim Hendrix, e poi c'è altra gente che naturalmente è venuta a trovarci perché ci trova molto simpatici, carini. Ma non dire eccetera, eccetera, eccetera. No. Allora, oggi abbiamo ospite Raffo Ferraro, scrittore, On the Rocks è il suo primo libro, e non abbiamo molto tempo da dedicarti però, Te lo Ciao. Diciamo subito. è stato bello. È arrivato il gruppo che agieterà la giornata con le sue canzoni, per cui abbiamo proprio poco tempo da darti, però te lo diamo volentieri. Oh, vi ringrazio dell'ospitalità. Perché abbiamo ascoltato questo pezzo? Sì. Noi mai l'avremmo messo su, Beh, perché era un pezzo molto bello, in cui tra l'altro si era unito alla band di Gillan, Yannick Gers, che poi è entrato negli Iron Maiden. perché è quello che dà il titolo al prologo del mio libro, e voi essendo persone molto gentili avete voluto farmi questo favore di mettere un pezzo che mai avreste messo. Non sviolinare tanto, più sviolini più diventiamo cattivi. L'ipocrisia non ci piace. Capezzone ancora meno. No. Adesso pesti a me. Va bene, allora scusami, intervengo io a gamba tesa. Raffo ci stava un po' raccontando anche come è strutturato il libro, perché non è una cosa semplicissima. Non è un romanzo, non è un saggio, ma è un po' tutto, volendo. Sì, ci puoi spiegare quello che dicevi prima, i microfoni spenti, ci spiegavi un po' la struttura del libro. L'innovazione che sta dietro al libro è appunto questa struttura narrativa in cui c'è un prologo, in cui la voce narrante guarda alla sua collezione di CD, e poi in ogni capitolo, che ha il titolo di una canzone, c'è una prima parte di recensione musicale, ma più emozionale che tecnica, sul gruppo o sull'artista che ha realizzato quella canzone. E poi c'è una frase della canzone che fa da cesura, divide a metà il capitolo, e da lì inizia una parte a romanzo che è in qualche modo collegata alla canzone. Perciò questa è l'originalità della struttura narrativa, quindi non è né un saggio musicale né unicamente un romanzo, e potete ben immaginare quanto casino questo mi abbia creato a trovare un editore molto ligi alle loro collane. E se chiedendo a quelli di narrativa no, ma il tuo è musicale, chiedendo a quelli musicali no, ma il tuo è un romanzo. Perciò diciamo che non è stato semplice. Diciamo che Sellerio o Einaudi difficilmente avrebbero pubblicato questa cosa. Vuoi anche ringraziare chi ha voluto concedere questa pubblicazione? Voglio ringraziare Sangel Edizioni, che è uno dei pochi editori rimasti che fanno anche esordire senza chiedere nessun contributo agli autori, e che poi, pur essendo un piccolo editore di Arezzo, si fa carico di editare, pubblicare e promuovere questi libri. E dove possiamo trovare il libro se abbiamo intenzione di acquistarlo, comunque di approcciarci, vedere un po' se ci può interessare? Libro è distribuito in molte librerie sul sito della casa editrice sangeledizioni.com, c'è anche un elenco completo, perciò uno può vedere nella libreria della propria città in quali librerie è disponibile. Poi è ordinabile anche direttamente via internet dal sito della Sangel, con spese di spedizione gratuite, quindi solo al prezzo di copertina, che sono contento, è basso, è di 12,90€. Benissimo, quindi io direi che a questo punto la marchetta l'abbiamo fatta. Benissimo. Ci sentiamo molto Maurizio Costanzo in questo istante. No, io volevo fare una domanda. Sì, ma è stata dura inghiottire il sessantenne che hai dentro di te, un po' come è una cosa che volevo chiedere anch'io a Raffo. No, perché scusa Francesco, prego, stai zitto, porca miseria. Va bene, non parlo più. Non dico più. No, noto che molti trentenni, ventenni si rifanno musicalmente a anni molto in là, 60, 70, invece di rifarsi prima di te, Stefano. Esatto, prima ancora. Quindi, proprio... E mi chiedo perché? Perché non vi avvicinate invece a musiche più attuali o di poco tempo fa, invece di appoggiarvi sempre a questi artisti? La mia opinione è che la produzione musicale attuale non sia all'altezza di quella che c'era 30 o 40 anni fa. E se volete che vi dica il perché, ho anche una mia teoria. È la teoria che il decadimento musicale sia stato in qualche modo accelerato dalla possibilità di scaricare le discografie. Perciò mentre una volta uno risparmiava i soldi, andava a comprarsi il disco, poi se l'era sudato, se lo ascoltava perché lo aveva pagato, poi c'erano dei dischi molto più brevi, quindi non c'era la necessità di riempire i CD, quindi gli artisti erano molto prolifici, uno o due dischi l'anno di poche canzoni. Ora, con la possibilità di scaricare le discografie, sarà capitato a tutti voi, come è capitato a me, di trovare persone che nel PC hanno tutta la discografia dei Deep Purple piuttosto che dei Rolling Stones, e poi appena gli nomini una canzone non la conoscono. Cioè, questa smania di scaricare che poi non coincide con lo stesso impegno ad ascoltare ciò che si è scaricato. Perciò la musica non è più una cosa importante nelle nostre vite a cui dedichiamo nel tempo, ma è semplicemente diventato un riempitivo, qualcosa da mettere di sottofondo mentre si fa qualcos'altro. Poi un'altra cosa che volevo chiederti è: non c'è niente di italiano, non c'è un artista italiano citato. Sì, che la scena negli ultimi anni ha prodotto qualcosa di buono. Battiato è l'unico italiano che ho citato. peraltro specificando che io non sono un fan di tutta la carriera di Battiato, ma solo di alcune parti. È un po' difficile esserlo, eh. Io lo seguo, ho tutta la discografia di Battiato, ma si può anche suddividere in compartimenti stagni tranquillamente e magari tralasciare una parte, ascoltarne solo un'altra. In effetti io specifico che le parti che mi piacciono di più poi sono quelle che partono da fine anni 70 e vanno fino a inizio anni 80 con la sua esplosione, e poi quella parte che va dalla seconda metà degli anni 90 fino a inizio anni 2000, di l'imboscata, Gomma Lacca, sì, Ferro Battuto. Io arrivo fino a Ferro Battuto, che considero ancora un gran album, diciamo l'inizio della collaborazione con Sgalambro che ha rivitalizzato. Francesco, scusami per prima, ti cedo la parola. Beh, la domanda che volevo fare, mi hai proprio, sei entrato in gamba tesa ed era più o meno quello che hai detto tu. No, io volevo domandarti, visto che proprio hai detto che ormai c'è la musica, diciamo quella recente, quella di adesso, non è ai livelli della musica di 30 anni fa, che buona parte sono d'accordo anch'io. Ma non c'è proprio, soprattutto in questo periodo, non c'è proprio né un gruppo, né un cantante, né una band che veramente vale la pena di essere ascoltato o anche citato magari, che ne so, in un libro o anche nel tuo libro. Digli per Jam che è contento. Non so se si è sentito, ma si suggerivano. Sì, ma guarda. No, io adesso sinceramente non sono così un conoscitore della musica contemporanea, sento tutto quello che esce, perciò può darsi anche che qualcosa ci sia e che mi sfugge. Il mio parere resta comunque che i vecchi fortunatamente ogni tanto riescono ancora a partorire qualcosa di buono, e tra l'altro siamo in un momento in cui un po' di vecchi stanno per tornare alla ribalta, perché fra qualche giorno è l'uscita di Super Heavy, il nuovo gruppo di Mick Jagger. Di Mick Jagger, Joe Stone. Cioè poi c'è in uscita nuovo album di Tom Waits, che è uno che è universalmente riconosciuto che le cose migliori ha iniziato a farle dopo più di 10 anni di carriera, contrariamente al resto di quella che è la tabella di marcia normale degli altri artisti. E soprattutto c'è una cosa pazzesca in uscita che non si sa se sarà bellissimo o se sarà un flop, ma è l'album che Lou Reed ha scritto e cantato con i Metallica. Ah, sì. Questo sarà da ascoltare. No, io concordo con lui con l'album dei Super Heavy. Ho ascoltato il singolo in questi giorni che è uscito e secondo me meritano tantissimo. Tra l'altro possiamo dire che qualsiasi altro 68enne con un vestito rosa shocking a dimenarsi farebbe ridere, e Mick Jagger no. Ma farebbe pena più che ridere. Scusa, no, ti do anche un'altra notizia che forse non tutti sapevano: è in uscita anche il nuovo album di Jimi Hendrix dal titolo Questa non ve lo aspettavate. Beh, da ascoltare assolutamente. Sì. No, anche perché dopo tutti questi anni di lontananza, di assenza dalle scene, insomma. Sì. Senti, a proposito di Jimi Hendrix, sì? Raffo ha in preparazione, anzi è già pronto, il suo secondo libro, che verrà sicuramente a presentare poi qui al Frankie's Motel. Sì. E guarda caso parlerà proprio di? Parlerà delle rockstar con la J come iniziale del nome e cognome, morti a 27 anni, vale a dire Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Ma pensa te. Tra l'altro non ha citato Tito Giannini con la J. Non conosce nessuno con la J, no. Esattamente. Senti, dimmi. Siccome le ultime cose di cui abbiamo parlato qui mi è sembrato molto interessante, mi sono sembrate molto interessanti, lo rinvitiamo ancora. Ma certamente. Così facciamo una bella chiacchierata. Sì. Mi è sembrato un personaggio piuttosto interessante e non lo dico perché è così, giusto per gli ho passato del denaro sotto banco. Sì. E lui lo tiene in mano perché, come detto, è nudo, quindi non ha dove metterlo. Lo tiene in mano perché, queste sono cose da... Mi dà una percentuale sulle vendite del libro, che al momento sono pari a zero, però ok. Con calma. Va bene, Raffo, purtroppo dobbiamo veramente chiudere con te questo spazio. Ti ringraziamo per aver partecipato al programma. Posso dire l'ultima cosa? No. Sì, dai. No, volevo dire l'ultima cosa che non abbiamo detto, che in questo libro c'è una prefazione di Oliviero Toscani, che ringrazio perché ha accettato di farmi una prefazione, perché io gli ho telefonato senza peraltro averlo mai conosciuto e gli ho mandato il libro, gli è piaciuto. È suo zio. Infatti noi ci chiedevamo come mai Oliviero Toscani ha fatto la prefazione a un libro. a questo libro? Beh, il retroscena è che prima l'ho chiesta a Morgan e mi ha chiesto dei soldi. E quindi ho chiesto a Toscani e, essendo conoscente, amico di un ragazzo che lo conosce, mi ha detto: no, Toscani sicuramente non ti chiede dei soldi, probabilmente ti manda a cagare, ma se poi te la fate, la fa gratis. E bene, così è stato. L'ultimissima cosa, su, per chi fosse interessato a avere informazioni e leggere le recensioni, su Facebook c'è una fanpage ufficiale di On The Rocks che potete trovare e consultare. Vi ringrazio per l'ospitalità con questo. Ma scherzi, noi siamo sempre qua e speriamo di averti ospite anche prossimamente. Una cosa sola volevo dire a chi cercherà di avvicinarsi a questo libro: non fermatevi alla copertina, perché se vi fermate alla copertina non probabilmente non lo acquistate. libro. Ma dopo che mi ha spiegato, apritelo, leggete qualcosina e poi... Ma dopo che mi ha spiegato il perché, non la trovo così rivoltante. No, vabbè, a me non piace. Vabbè, dei gustibus. Giusto. Dirti a sostegno di quello che hai appena detto, che quando ho mandato il libro a Toscani, il ragazzo che aveva lavorato con lui mi ha detto: mandaglielo senza copertina, altrimenti ti dice sicuro di no. Perfetto. Va bene, Raffo, ti ringrazio ancora per questa tua partecipazione. Che brano vuoi selezionare da questa tua compilation che ci hai proposto quest'oggi, che ci hai portato quest'oggi? Allora, direi che per chiudere potremmo mettere For Those About to Rock degli AC/DC, che è la traduzione di Morituri te salutant, e in questo caso è un Rocketturi te salutant. E immagino sia l'ultima traccia, vero? Esattamente. Allora andiamo a selezionare l'ultima traccia. La compilation, la compilation come si intitola? Devi chiedere. Rock Lesson Number One. L'ABC del rock. Beh, ci sono anche cose di nicchia.